notte del classico sabba. Gran ventura per te che cerchi vita, nel regno delle favole, nel regno delle favole tu sei. Saggio consiglio è di spiar ciascun nostro fortuna, per opposto sentier. Del suo vago idioma cantatrice. Son sul suolo di Grecia, ogni mia fibra è posseduta dall'amor. Streghe del nord, ben io sapevo farmi obbedir, ma qui fra strane larve più me stesso non trovo. A prima pori delirto arz, acrica tra mie resine, o predilette alle mie nori, un orbo di voi non fiuto. In quest'attica terra qual s'inoltra volante o danzante, gaietto sciame femminil,